le motivazioni dell'allarme sono il fatto che noi da un po' di tempo, direi quasi 2 anni, siamo presenti all'interno del Ramazzini, e quando dico presenti non solo, come dire, abbiamo tesserati, ma facciamo attività sindacale, quindi assemblee eccetera, e subito, come dire, abbiamo notato che non c'era abitudine, penso, dentro Ramazzini, perché poi in realtà è una realtà piccola nonostante l'importanza che ha, e questo purtroppo forse è anche parte del problema, no? Realtà piccola che però fa cose grandissime, tutte le varie ricerche che in questi anni, non solo ultimi anni, da sempre, il Ramazzini fa, il glifosato, aspartame, 5G, cioè tutti i temi più difficili, così tutte quelle ricerche sono sempre state fatte da Ramazzini, quindi ricerche riconosciute a livello mondiale su tematiche controverse, difficili, sempre tutte fatte da una realtà un po' strana, perché è una realtà piccoletta. Quando parliamo di Ramazzini parliamo di forse una cinquantina di lavoratori, che però è in comunicazione col mondo, perché fa ricerche a livello internazionale, riconosciute proprio anche a livello internazionale, contro dei mostri, perché quando parliamo di glifosato parliamo di colossi delle corporation che, insomma, rispondono ai nomi di Monsanto, Bayer, cioè, nel senso, quindi non sono temi facili per nessuno, e quindi un gioiello della ricerca indipendente, che come tutte quelle che si occupano di ricerca indipendente o fanno cose, insomma, indipendenti da enti grandi, deve fare un po' di necessità e virtù, quindi si autofinanzia con una grande rete associativa che veramente a suon di cene, pranzi, eccetera, varie raccolte fondi, si autofinanzia in un qualche modo. Una cosa, come dire, inimmaginabile per il livello di lavoro che fa il Ramazzini. Poi ovvio che viene sovvenzionato partecipando a dei bandi, anche questi internazionali, statunitensi o europei, eccetera, con cui finanzia le ricerche ad alto livello. Però rimane il fatto che è questa realtà qua, un po' strana. Facciamo da 2 anni attività sindacale, raccogliendo un po' anche quelli che sono dubbi, problematiche dei lavoratori, che sono sia questioni, diciamo, interne, che mi sembra qua il caso di fare discuterne, ma anche raccogliendo anche quelle che sono le dubbi, le perplessità, come avviene sempre, anche di questioni un pochino più ampie. E su queste questioni ampie c'era un po' la questione sulla direzione scientifica. La direzione scientifica del Ramazzini è stata recentemente oggetto di un cambio che ha fatto sì che in questo momento manchi di fatto un direttore scientifico all'Istituto Ramazzini. E essendo un centro di ricerca di livello internazionale non è una cosa da poco, perché ovviamente non è affare sindacale, me ne rendo conto, però ha delle ripercussioni sulle lavoratrici. Cioè, di fatto un centro di ricerca come il Ramazzini basa la sua stessa, forse anche esistenza, sul fatto della credibilità e dell'autorevolezza. Autorevolezza e credibilità che si è costruita, il centro di ricerca Maltoni in questi anni, tutte quelle ricerche di cui parlavo prima. È ovvio che se manca una guida e se non c'è una direzione scientifica, questo in breve tempo potrebbe, questa autorevolezza andare a picco, e se va a picco l'autorevolezza e la credibilità, c'è il rischio che poi vadano a picco anche le ricerche, nel senso che poi non hai più finanziamenti, non hai più appoggi internazionali per fare quelle ricerche, e quindi ne consegue che rischia di non esserci lavoro per quelle lavoratrici e lavoratori. Quindi è questo poi il nostro problema. E attenzione, vorrei sgombrare campo di equivoci, non è una questione personale, cioè voglio un direttore che si chiama Pinco Pallo, voglio quello di prima, voglio quello di dopo, eccetera. Cioè, a me basterebbe sapere cosa si vuol fare. Noi non più tardi di 12-13 gennaio abbiamo inviato una richiesta, perché questa cosa del direttore l'abbiamo imparata, cioè l'hanno imparata i lavoratori, perché a noi nessuno debba, e questo sarebbe, come dire, già un'inadempienza contrattuale, perché, come dire, non che devono consultarci su chi deve diventare direttore, ma sul fatto che non c'è, che cambia l'organigramma, eccetera, magari come diritto all'informazione tra le parti avremmo diritto di sapere qualcosa anche noi, a cose fatte, ovviamente, ma nessuno ci ha detto nulla. I lavoratori sono stati informati con una mail scarna che non ci sarebbe stato più quel direttore lì, e poi nessuno ha saputo più nulla. Noi quindi, in realtà, già in ritardo, il 13 gennaio inviamo una PEC, a questa PEC nessuna risposta. Anche per questo abbiamo sollecitato, anche attraverso comunicato stampa, quello che è il nostro disagio e il nostro smarrimento di fronte a questa mancata risposta, che per quello che mi riguarda è anche una risposta, cioè, nel senso, nel momento in cui tu non ritieni degno un sindacato, un'organizzazione sindacale non ritiene degno, nel senso che non ritiene neanche che sia opportuno rispondere, anche solamente sarebbe bastata una presa in carico. Abbiamo letto la vostra missiva e riteniamo che non ci sia da preoccuparsi assolutamente di niente, perché stiamo lavorando per sistemare questo problema e al più presto vi convocheremo per darvi le corrette informazioni. Anche una cosa di questo tipo sarebbe in qualche modo, non è che mi faceva felice, però sarebbe stata già una dimostrazione di almeno ricezione. Invece nulla di tutto questo, non c'è arrivato nulla. Adesso, ve lo dico così, ho un'informazione nuova, stranamente dopo l'uscita sui giornali è venuta la proposta di un incontro che accettiamo di buon grado, quindi mi auguro che in settimana si riesca a fare, a condividere una data e un incontro in cui noi, come dire, ci aspettiamo di riuscire a ripartire con la discussione, perché ecco, vorrei anche chiarire, noi in realtà, come dire, in questi due anni, un anno e mezzo di attività sindacale, oltre a fare assemblee, abbiamo fatto anche incontri con la presidenza dell'Istituto Ramazzini, rivendicando, come dire, chiedendo spiegazioni su alcune cose, avendo delle volte risposte, delle volte no, ma insomma avevamo cercato di chiarire, anche se la realtà è piccola, anche se forse non erano abituati alla, come dire, al confronto sindacale, però in ogni caso avevamo chiesto, avevamo segnalato che se si vuole fare un percorso di tipo sindacale, di relazioni sindacali, bisogna darsi reciproco atto che ognuno ha voce in capitolo su alcune cose e quindi, come dire, e c'è una modalità che è quella appunto di io ti faccio una domanda, tu mi dai una risposta. Ecco, direi che purtroppo dal 13 gennaio questa cosa qua è venuta meno e c'è poco da fare, quindi questo ci dispiace molto, anche perché, come dire, non è tanto la questione di mancare di rispetto alla funzione pubblica CGIL, al di là di tutto, ma è mancare di rispetto a quelle lavoratrici e quei lavoratori che penso anche giustamente facciano solamente delle domande e non pretendano certo di avere le risposte, cioè le risposte che vogliono loro, però almeno delle risposte, cose che purtroppo per il momento non abbiamo avuto. Quindi ecco, non c'è una bella situazione in questo momento a Ramazzini, perché c'è un po' di dubbi su quello che sarà, che può essere il futuro della ricerca per i Ramazzini, nel senso che magari il lavoro c'è, io quindi potrei anche essere meno arrabbiato, però bisogna vedere che tipo di lavoro e che tipo di ricerca. È ovvio che io posso fare tutte le ricerche del mondo, però, come dire, quel genere di ricerche sono ricerche che ovviamente non hanno molta non hanno molti sponsor, mettiamola così, e purtroppo proprio perché sono ricerche che vorrebbero appunto indagare, hanno indagato in questi anni l'esistenza di problemi di natura di salute rispetto all'utilizzo di alcune sostanze, in particolare le sostanze cancerogene che a nostra insaputa vengono inserite o sono dentro alcuni alimenti, eccetera eccetera, quindi lì si capisce già quale può essere il problema di una ricerca di quel tipo lì, perché ovviamente si prestano a interessi di parte, penso insomma alle aziende che magari su quelle determinate sostanze eccetera ci investono miliardi di dollari in risorse. Ecco, da qui in avanti voi come intendete muovervi come sindacato? Come sindacato come siamo mossi fino adesso, nel senso che finché per me è sempre importante, utile, cioè, è sempre importante mantenere aperta una discussione con tutte le difficoltà del caso eccetera, però non è che mi impicco sul fatto di dire teniamo aperta la discussione purché sia, nel senso intendo aperta la discussione se mi serve ad avere risposte per quelle lavoratrici e quei lavoratori, quindi io mi auguro questo incontro che accolgo con soddisfazione, tendo aperto questa discussione se riesce a farmi avere delle rassicurazioni per quelle lavoratrici e quei lavoratori, se così non fosse ci si ritroverà con quelle lavoratrici e quei lavoratori per capire anche quali azioni eventualmente mettere in campo, nel senso in questo momento in realtà chi è preoccupato più che il sindacato, non è solo il sindacato, penso che ci sia un pezzo di comunità scientifica, sono anche documenti facilmente reperibili sul web, il Collegium Istituto Ramazzini in questi giorni ha mandato uno statement, una situazione che è molto peggio, se posso dire, del nostro comunicato stampa, nel senso che dice alcune cose molto pesanti, quello che per loro è la situazione del centro di ricerca, e quello in realtà per me è un tema, cioè nel senso che non sta parlando lì un'organizzazione sindacale eccetera, ma come dire, luminari del mondo della ricerca. Se dei luminari dicono questa cosa, mi fa paura, non tanto, scusa se lo dico così, però non tanto il comunicato stampa o quello che può uscire sul Corriere della Sera di Bologna, su Repubblica Bologna, su Radio Città Fisico, con tutto rispetto ci mancherebbe, così, perché è un livello locale. Quello che mi preoccupa per quelle lavoratrici è quello che può succedere nel consesso scientifico internazionale rispetto al fatto che, come dire, qualcuno può pensare che il Ramazzini non è più credibile e non è più autorevole come ricerca indipendente. Sono sicuro che qualcuno si starà sfregando le mani, detta come manetta, e qualcun altro magari meno, e nel frattempo seriamente potrebbero essere quelle lavoratrici, quei lavoratori che da anni si fanno in quattro per portare a casa ricerche fondamentali, l'ultima tra le tante, quella sul glifosato. Quindi questo è un, secondo me è una questione che dovrebbe importare a tutti. Poi mi rendo conto che in questo momento ci sono ben altri problemi eccetera, però non è che sia così così fuori dal mondo, cioè nel senso, io abito a Sasso Marconi, recentemente ha fatto discutere il fatto che le rete ferroviaria italiana per l'Italia, non so chi, ha, come dire, buttato come diserbante lungo la linea del glifosato, una cosa che dove c'era dentro il glifosato, e ovviamente c'è stato un incontro dei cittadini giustamente preoccupati di Mar Zabotto, perché passa lì la ferrovia carretana, sul glifosato, a cui ha partecipato un'ex direttrice del Ramazzini, che è appunto la dottoressa Belpoggi, o per parlare del glifosato. Quindi in realtà sono cose che purtroppo ci sono molto più vicine di quello che può sembrare. Quindi il fatto di dire quella sostanza, al di là di tutto questo, però quella sostanza fa male, se, come dire, non c'è nessuna ricerca seria che lo dice, abbiamo di niente. Invece, ecco, fino adesso una ricerca seria qualcuno l'ha provata a fare. Tra l'altro, appunto, forse quello che penso che abbia fatto male è il fatto che noi abbiamo citato in quel comunicato stampa i 25 anni dalla scomparsa di Cesare Maltoni, ma non l'abbiamo fatto per una qualche tipo di ripicca. Era, per noi il senso era che, al di là di ricordare la scomparsa di un grande luminare come Maltoni, sarebbe anche il caso di ricordarlo mettendo il più possibile in sicurezza quello che è la sua eredità valoriale, che secondo noi, limitiamo a dire con molta umiltà e senza prendermi, si mancherebbe, nessun merito, però penso che il miglior venire per ricordarlo sia quello di portare avanti la ricerca in niente, perché penso che sia il più grande lascito che ha fatto, e il fatto che debba dirlo un sindacato un po' mi fa riflettere sulla situazione che stiamo vivendo, perché insomma è un po', mi viene a dire che è un po' triste, ecco. Rimango in realtà un po' amareggiato che dobbiamo essere noi a ricordare questa cosa qua. Noi lo facciamo per le lavoratrici, ci mancherebbe, però in realtà spetterebbe ad altri il fatto di preservare la ricerca, la libertà e l'indipendenza della ricerca scientifica. Però questo è.